giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Se accanto alla biblioteca avrai l'orto, non ti mancherà nulla. Marco Tullio Cicerone. Bentrovati in giardino, buona prima domenica di novembre anche da parte mia. Qualche libro, se non una biblioteca intera, in casa ce l'abbiamo per aiutarci ad affrontare questo secondo momento di chiusure e di incertezze. Manca solo l'orto. A questo provvediamo nella puntata odierna, messa in piedi pensando proprio agli appartamenti di città dove siamo costretti a stare molto di più e dove spesso ormai anche lavoriamo. Vedremo modi nuovi per portare più piante possibili, decorative e purificatrici, anche nel più piccolo monolocale, e subito come trasformare in un orto produttivo anche un minuscolo balcone. Da questo punto di vista, tra le diverse soluzioni, esiste ad esempio Poti, il mini orto per gente di città con spazi ridotti, ideato da Exagro, azienda italiana fondata da due ragazzi neanche trentenni. Uno di loro è Alessandro Grampa. Sì, come grandissimo obiettivo c'è sempre stato per noi quello di riconnettere l'uomo alla natura, quindi partiamo anche un po' dai concetti di design biofilico, quindi proprio questa necessità del riconnettere l'uomo con qualcosa che è naturale, che è vivo, ci fa sentire bene. Poi l'anno scorso chiaramente sappiamo tutti almeno quello che è successo, ci siamo rinchiusi in casa e quindi da lì subito abbiamo pensato come riportare sempre il nostro know-how e la nostra esperienza nel disegno di questi prodotti anche a casa, diciamo, di tutti quanti, che poi ovviamente avendo molto meno spazio disponibile, magari semplicemente un piccolo balcone, c'erano necessità di prodotti diversi, e quindi da lì siamo ripartiti col nostro processo di disegno e di innovazione per realizzare quello che poi adesso è Poti, quindi un sistema molto semplice che, diciamo, in meno di mezzo metro quadrato riesce addirittura a coltivare come se fosse un orto da 10 metri quadrati, quindi fino a 40 piante, installabile e facile da utilizzare. Quindi stiamo parlando di un orto verticale e domestico nel senso dedicato agli appartamenti di città, quelli che al più hanno un balcone, e si può fare anche lì. Esatto, è fatto apposta per chi non ha spazio. Abbiamo fatto un grandissimo survey per capire effettivamente cosa spinge gli utenti a volere un orto in casa, ma soprattutto anche che cosa gli frena ad averli fino ad ora. Quello che abbiamo scoperto è in primis lo spazio, perché appunto non tutti ce l'hanno disponibile, e in seconda cosa, diciamo tema ancora più interessante, è il fatto che non tutti si sentono di avere il pollice verde per poter coltivare, quindi deve essere anche un sistema facile da utilizzare che ti riesca piano piano a guidare in tutte le varie pratiche. Ecco, al di là di queste difficoltà, la mancanza di spazio, il timore di non essere in grado, quali sono invece poi i motivi che spingono le persone a desiderarlo, un orto in casa? Le ragioni sono tante. Allora, noi vediamo, diciamo, su una fascia magari di urban farm, come li definiamo noi, più giovane, è tutto le grandi tematiche di accedere a cibo fresco, riuscire a coltivarti direttamente tu le verdure che magari consumi più spesso o che semplicemente hai bisogno di avere fresche e sapere esattamente cosa c'è dentro. In molti altri casi, per esempio, giovani famiglie lo utilizzano per addirittura educare i propri figli, perché in tanti chiaramente non hanno più avuto maniere di, magari, non so, ad avere il nonno con la casa in campagna che potesse ancora farci vedere l'orto, e quindi sono delle pratiche interessanti da sviluppare anche come sorta di educazione. E in ultimo, un altro tema molto interessante è con magari persone ancora un pochettino più in là con l'età, che rispetto al doversi fare un orto tradizionale preferiscono usare un sistema verticale che gli permette di coltivare tutto quello che hanno bisogno in pochissimo spazio senza doversi abbassare a terra. Mille buoni motivi per portarsi a casa un orto. Sì, diciamo che il tema principale è quello di ritornare a contatto con la natura. Il fatto proprio di avere qualcosa di nostro che cresce e di cui ci sentiamo anche fieri di aver raccolto. Poi, come sappiamo, i bambini quando vedono da dove arriva il cibo hanno molta più voglia di poi assaggiarlo, bambini che magari non mangiano troppa verdura piuttosto che altro, già solo il fatto di averlo coltivata li porta a mangiarla molto più spesso. Sì, ma poi i bambini possono essere anche una scusa, perché l'educazione è fondamentale da questo punto di vista, ma anche gli adulti in città ormai sono lontanissimi dalla natura, quindi una soddisfazione, una bella soddisfazione anche per loro. Ma questo orto verticale per balcone o per terrazzo, al di là poi delle sue funzioni, come dire, conoscitive, è anche produttivo? Sì, diciamo a livello di produttività. Con il sistema più piccolino si riescono a fare fino a 20 piante, quindi tutte diverse, si riesce ad avere una buona varietà, sicuramente sicuramente magari non da sfamare tutta una famiglia da una produzione del genere, ma sicuramente avere tutta la scorta di magari piante aromatiche piuttosto che verdura a foglia si riesce ad avere sempre disponibile. Con il sistema più grande si riescono ad arrivare fino a 40 piante. Quest'estate ad esempio ci coltivavamo addirittura le zucchine con i fiori di zucca, quindi non è solo un orto per farci magari il basilico e la salvia, è proprio anche un sistema che ti permette, se lo vuoi fare, anche di coltivare qualcosa di più serio, quindi delle verdure, dei frutti, eccetera, eccetera. Questo col sistema più grande. Quello che noi consigliamo è che con 20 piante è un giusto momento, diciamo, per iniziare. Con 40 piante già se una coppia incomincia ad avere abbastanza produzione. Ma come è fatto un orto verticale che sta su un piccolo balcone che può cogliere anche 40 piante? Immaginiamoci come se fosse una specie di torretta costruita con dei modelli che si ripetono come dei pattern ripetitivi di questi moduli che contengono le piante. Ognuno inclinato a diversi gradi, quindi quello che si crea sono una sorta di microvasi che sono poi fanno parte tutti dello stesso orto e ogni microvaso va a contenere una varietà di pianta diversa. In queste situazioni poi la torretta verticale in mezzo ha un sistema di irrigazione automatico che porta l'acqua e i nutrienti a tutti i moduli. All'interno di questi moduli si inserisce un substrato, quindi come se fosse della terra, ma in realtà noi non utilizziamo la terra, utilizziamo una fibra di cocco biologico disidratato che poi viene reidratato dall'utente. Viene utilizzato al posto della terra perché è molto più leggero da spedire, ma poi ha dei vantaggi per il drenaggio dell'acqua e dei nutrienti molto più elevata. Quindi immaginiamoci come se fosse una sorta di fontanella dove l'irrigazione parte da sotto, arriva fino a sopra e poi riscende piano piano filtrando tutti i vari moduli. E poi alla fine in basso vi è questo recipiente di acqua e nutrienti che fa parte del sistema stesso, quindi non è una cosa esterna, e lì all'interno va a fare la raccolta di tutte le acque, quindi non si spreca nemmeno l'acqua in eccesso perché viene tutta quanta ricircolata all'interno del sistema. Possiamo parlare di idroponica? Sì, è una sorta di idroponica, ovviamente in questo caso non avendo le piante direttamente immerse nell'acqua, ma avendolo tramite questo substrato di fibra di cocco, è un semi-idroponico. È una via di mezzo, diciamo, tra la fertirrigazione e un sistema idroponico. Quello che poi c'è in aggiunta del sistema è il fatto che tutta la nostra tecnologia che avevamo già sviluppato anche in passato per sistemi molto più automatizzati, diciamo, per quanto riguarda l'applicazione, che è, noi la definiamo Exby, che è un assistente virtuale di giardinaggio che ti segue passo passo, l'abbiamo portata anche all'interno di questo sistema poti. Quindi l'utente, proprio alle prime armi, riesce a far partire queste coltivazioni in completa autonomia seguendo passo passo questo assistente virtuale che ti guida nelle varie pratiche. Quindi questo sistema, questo orto verticale anche per piccoli balconi, diciamo, provvede anche alla riserva d'acqua e di nutrienti. Ma questo vuol dire che io devo avere l'irrigazione fuori, devo avere un rubinetto oppure no? No, non serve, perché basta riempire il contenitore che è alla base dei moduli di irrigazione, quindi in base di poti che si versa, diciamo, come se fosse un recipiente normale. E poi a quel punto la pompa è già immersa all'interno e fa parte del sistema di irrigazione automatizzato, quindi non c'è nemmeno bisogno di avere l'attacco all'acqua. E quali piante possiamo coltivare? Poniamo adesso, sta arrivando il mese di novembre, in questo autunno 2020 così strambo, chiamiamolo così. Che cosa possiamo cominciare a coltivare? Quello che in questo periodo è molto interessante da coltivare sono tutte le famiglie di cavoli, per esempio, e la parte di verdura foglia stile lattuga piuttosto che songino, rucole, rapanelli, eccetera eccetera. Ovviamente non si possono andare a fare i pomodorini perché in questa stagione non è certamente il clima più adatto, però già tra qualche mese si potrà iniziare a fare quello che sono i trapianti delle verdure barra dei frutti che potremmo già andare a raccogliere in primavera. È un buon momento per iniziare a coltivare sia delle varietà che sono un pochettino più resistenti alle temperature, quindi come dicevo prima tutta la parte di verdure foglie più o meno insalate barra radichi, e soprattutto poi la parte di erbe aromatiche. In questo caso tutte le erbe aromatiche, diciamo, da quasi arbusto, cioè nel senso non il basilico ma piuttosto della salvia, del rosmarino, del timo, della maggiorana, eccetera eccetera, sono delle ottime piante per poter iniziare a coltivare. Noi quello che ci sentiamo, diciamo, sempre di consigliare ai nostri urban farmer in questo periodo è di sfruttare l'occasione, soprattutto quando, diciamo, non si ha un grande pollice verde ancora, per iniziare a coltivare adesso, perché che chiaramente ci si può preparare a livello di praticità e di manualità a quando la vera stagione, piano piano, tra qualche mese, verso la metà della fine di febbraio, si ritorneranno a fare delle varietà un pochettino più complesse, soprattutto quelle che riguardano i frutti, piuttosto che le varietà un pochettino più sensibili. Cominciamo, no, con i cavoli, con i rapanelli, ci prepariamo poi alla grande stagione della primavera. Avete pensato poti durante il periodo di lockdown, è giusto? Sì, diciamo, la fase di disegno di poti è avvenuta proprio in meno di 2 mesi, è stato un processo di realizzazione abbastanza record, e era un sistema che noi inizialmente stavamo testando appunto in questi paesi in via di sviluppo come la Colombia. Quello che abbiamo fatto è stato comprendere che lo stesso identico concetto di prodotto potesse essere apportato al mondo nostro, che eravamo in questo momento bloccati in casa e che dovevamo bisogno di accedere alla natura in qualsiasi maniera fosse possibile, e quindi abbiamo combinato il nostro know-how e siamo riusciti a lanciare il prodotto a giugno, quindi relativamente giovane. Avete sentito un aumentato bisogno di avvicinarsi alla natura in questi mesi? Voi che siete nel campo da tempo, peraltro, quindi da ben prima che scoppiasse il Covid. Come dicevo, lavoravamo prima per portare la natura all'interno degli spazi dove lavoravamo prevalentemente. Adesso lavoriamo in casa, quindi subito ci siamo detti andiamo verso quella direzione. E la richiesta è stata enorme. Calcoliamo che, per esempio, diciamo, il mondo dello smart garden in assoluto ha avuto dei mesi dove è cresciuto del 1500% in meno di 2 mesi. Sono completamente finite lo stoccaggio che era disponibile in Europa, sono andati completamente sold out, e nel frattempo... In quali mesi? Prevalentemente aprile-maggio. Indicativo. Sì, quest'anno c'è stata una richiesta enorme da questo punto di vista. Tanti nostri fornitori hanno addirittura dovuto bloccare per settimane il loro sito per le richieste di nuovi ordini durante il mese di aprile-maggio, perché non ce la facevano più a starci dietro. C'è stato proprio... È come se il mondo si sia risvegliato e tutto quello che noi pensavamo sarebbe successo nei prossimi 5-10 anni in realtà è successo in 3 mesi. Exagro.io. Alessandro Grampa, grazie. A voi. In questo mondo distorto, oggi ho bisogno di un orto, di ritornare alla terra, e questa è la mia guerra. E datemi un orto, che vi solleverò il mondo. E datemi un orto, che non sono morto e sepolto, ma che ho bisogno di aria e di una nuova storia. E datemi un orto, un orto. Se non abbiamo neanche un balcone, le piante possiamo portarle in casa in verticale. Trasformeremo le abitazioni in cui siamo confinati in una giungla indoor, alla Patrick Blanc, tra poco. Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo, Spezia, so che sei bravo. Il giardino segreto. Portare tante piante in casa, anche se abbiamo un piccolo appartamento, è la missione di questa seconda parte del Giardino Segreto. Bentornati. Mi ispiro alla casa di Patrick Blanc, il botanico francese che ha inventato il verde verticale portandoselo naturalmente dentro casa, e sono indimenticabili le foto dello studio dove lavora, che è una sorta di foresta indoor, dove Patrick Blanc trova ispirazione e carica, evidentemente senza dover uscire. Un verde verticale di quel genere è impossibile da raggiungere da comuni cittadini, anche per i prezzi, ma c'è chi dei quadri vegetali per principianti, si chiamano U con H iniziale finale, li ha creati e sono prodotti da Ortis Green, azienda italianissima del Bergamasco, come ci conferma il CEO Alberto Vitali. Sicuramente, assolutamente. Per questa particolare dimensione del verde attrae sempre tutti. Noi siamo partiti realizzando giardini verticali con una tecnica leggermente diversa da quella di Blank, però poi l'abbiamo declinato in questo piccolo prodotto disponibile per tutti. Il giardino verticale ha un suo costo che non lo rende facilmente avvicinabile. Sicuramente è un modo anche di arredare, di decorare la casa. In spazi ridotti rende sfruttabili anche in prospettive che prima non si pensavano. Parlavamo di Patrick Blank e delle sue grandissime capacità botaniche. Lui è in grado naturalmente di mantenere un verde del genere dentro casa, però attraverso i moduli Ortis Green questo verde lo si può appendere alla parete anche senza essere degli espertoni. Sì, l'idea era quella, cioè renderlo un po' disponibile a tutti senza avere dietro questa ricerca che c'è per esempio nella tecnica di Blank, che è molto particolare, molto sofisticata. Non dimentichiamo che lui mette le piante nude, la radice nuda, in un feltro e lo nutre con un mix particolare di acqua e sali. Noi abbiamo sostituito questo feltro e questa, chiamiamola, forzatura con un substrato molto particolare che è un muschio che trattiene fino a 20 volte il suo peso in acqua, quindi lo tiene sospeso, per cui la pianta radica in un ambiente naturale meno forzato. L'acqua come la diamo a questo modulo? Si bagna il modulo dall'alto perché c'è un'apertura da sopra con dei microfori che raccolgono e distribuiscono l'acqua in questo substrato naturale che si chiama spagno e la tengono sospesa. Se io mettessi della terra questa dilaverebbe sporcando la parete. Qua invece c'è questo corpo filamentoso che tiene sospesa l'acqua e la rende disponibile alle piante e rende disponibili i nutrimenti per queste piante. L'importante è che il substrato rimanga sempre umido. E le piante infilate nella nostra cornice poi rimarranno, diciamo, orizzontali, cambieranno di giorno in giorno a seconda dell'ora e della luce, dando sempre diversità ai nostri quadri vegetali. Quanto è ampio un modulo base? 38 cm per 27, è profondo 7 cm e ha 6 fori. Le piante vengono inserite, rinvasate dal loro vasetto in questo substrato e hanno variabilmente un periodo di adattamento che va dai 4 agli 8-10 giorni. Dopo questo periodo ogni pianta mostra la sua attitudine verticale, quindi alcune rimangono ferme orizzontali, altre cercano di salire, altre cascanti. E sostanzialmente è un piccolo quadro che cambia nel corso del tempo, ogni giorno. La O rimane un piccolo modulo per sperimentare il verde verticale, è un entry level per questo mondo, diciamo, per questa nuova dimensione del verde sostanzialmente. Un entry level ci piace perché noi stiamo iniziando adesso e quindi con questi moduli base possiamo anche imparare, però vogliamo anche un po' sbizzarrirci con le piante, ci faccia un po' sognare. Che cosa possiamo inserire all'interno di questi moduli? A grandi linee tutte le piante tropicali da interno, quindi partiamo dagli Spatifyllum, Ianthurium, Asplenium, Dracene, Syngonium. La fantasia è il limite. La fantasia è solo il limite. Facciamo qualche esempio per giardinieri in erba. La Fittonia, questa piccola piantina che ha queste foglie coloratissime, rosse, verdeggianti. La Calatea anche. Sicuramente, la Calatea. Ma Asplenium, potrei dire anche l'Eterno Potos, per esempio, piuttosto che una spargina o anche un filodendro. Un filodendro con le foglie a cuore. Poi lei prima citava l'Anthurium, che ha i fiori rossi, lo Spatifyllum, che ha i fiori bianchi. Non sono fiori, però, insomma, queste conchiglie bianche. Sì, solo lo Spatifyllum e l'Anthurium ci permettono di giocare un po' con i colori e le citate fittonie. E nelle fittonie abbiamo una serie di varietà di colori, di sfumature di rosso, di venature anche. Sono molto, molto, molto carine, coreografiche anche le fittonie. Stiamo parlando di quadri vegetali da mettere in salotto, si possono mettere anche in camera, perché non è vero che le piante in camera inquinano, le possiamo mettere in qualunque stanza della casa. Però pensandoci bene, quando abbiamo uno spazio esterno veramente limitato, dove abbiamo già il condizionatore, altre cose sul balcone, eccetera, un verde verticale può anche essere appeso fuori, naturalmente cambiando le piante. Certamente possiamo realizzare giardini anche su balconi, sempre per ottimizzare l'utilizzo dello spazio. Qua invece la variabile più importante è l'esposizione cardinale. In base all'esposizione cardinale dovremo scegliere le piante più adatte per il nostro giardino verticale. E naturalmente quello vale sempre, bisogna assolutamente guardare la posizione che abbiamo, l'esposizione e poi scegliere le piante adatte, perché altrimenti ci lamentiamo di non essere pollici verdi. No, in realtà non ci siamo minimamente informati, insomma è tutto qua la questione. Ma le piante posizionate così in verticale, ma per loro orizzontale, perché alla fine spuntano orizzontalmente. Ecco, ma loro stanno bene in questa posizione? Sì, hanno questa fase di adattamento e poi si trovano molto bene. Devo dire, merito anche di questo substrato, che è particolarmente ricco di sostanze oligominerali e è in grado anche di fissare l'azoto e quindi dà un aiuto ulteriore a queste piante. Ma comunque, superata la fase di adattamento, la pianta si trova assolutamente bene. Grazie ad Alberto Vitali di Ortis Green, ma i quadri vegetali, il verde verticale, non è l'unico modo per arredare e purificare la casa con le piante. Se abbiamo poco spazio, esistono anche i terrarium, minuscoli giardini sotto vetro di gran moda, e il kokedama, di origine giapponese da appendere. Ci ha spiegato come si creano e come si curano in una precedente puntata l'agronoma Giulia Tamai, che nel suo spazio verde di Milano, Dot Room si chiama, insegna anche a comporli. Per ritrovare terrarium, kokedama, ghepalla, potete riascoltare in podcast la puntata del 23 febbraio scorso. Giulia Tamai però è una fucina di idee e ora il Giardino Segreto propone anche dei mini erbari come soprammobili che ci riportano indietro nel tempo. Esatto, torniamo indietro nel tempo, nel senso che questa è sempre stata una mia grossissima passione che ho scoperto ancora ai tempi dell'università, quando avevo iniziato ad andare in giro a raccogliere fiori, foglie e a seccarle. Questa passione poi mi è rimasta perché io li trovo meravigliose e adesso sono riuscita a realizzare anche questi piccoli erbari, quindi a metterli sotto una cornicetta di plexiglass magnetica e quindi regalare questa bellezza anche agli altri. Questi erbari non hanno naturalmente uno scopo scientifico, sono decorativi. Bravissima, sono proprio puramente estetici. A me, ecco, la sensazione che trasmettono è la leggerezza proprio, perché è la natura in tutta la sua bellezza. Questa cornice è assolutamente poco impattante, quindi viene risaltata, messa in risalto tutta la bellezza della natura. Quindi chiunque avesse una pianta del cuore che vuole fermare nel tempo, con questi erbari lo può fare. Può prendersi la foglia piuttosto che il fiore, pressarlo ovviamente nel modo giusto, ci vuole una tecnica, ma non è una tecnica particolare, bisogna solo avere l'accortezza di evitare che il fiore piuttosto che la foglia, che contengono ovviamente acqua al momento della raccolta, marciscano, quindi bisogna pressarli, disidratarli nel modo giusto. Giulia Tamai, chiudiamo questa puntata con una pianta classica, in vaso, per i nostri appartamenti, però direi nuova, perché se di banani ormai ne vediamo moltissimi nei giardini di Milano, ma anche in Piazza Duomo, insieme alle palme, nel giardino pensato da Marco Bai, qui il banano ce lo portiamo proprio dentro casa, questa pianta del paradiso, come viene chiamata, dalle foglie spettacolari. Un banano, esatto, hai detto bene, in questo caso non si tratta del banano che vediamo nei giardini, è un'altra varietà che possiamo portarci in casa, è un banano nano, il termine scientifico è Musa acuminata, ha ovviamente foglie più ridotte rispetto al banano che siamo abituati a vedere all'esterno ed è una pianta che dà grandi soddisfazioni in quanto cresce velocemente e molto generosa, bisogna solo avere due o tre accorgimenti per farla stare bene. Venendo da una zona umida e calda, ovviamente noi dobbiamo cercare nel nostro appartamento di assicurare le stesse condizioni ambientali, non stesse ma simili del suo ambiente naturale. Questo lo possiamo fare appunto tranquillamente anche tutti i giorni, se non una volta ogni due giorni, con delle vaporizzazioni sulle foglie. Il banano ha anche bisogno di molta luce, non vuole luce diretta come nessuna pianta da interno, perché ovviamente la luce diretta provoca delle bruciature sulla superficie fogliare, vuole una buona luce diffusa e poi una temperatura costante. Evitate le correnti d'aria, gli sbalzi termici, perché si rischia appunto di farlo soffrire. Evitare i ristagni idrici, ovviamente, cercare di tenere il terriccio sempre umido, quindi bagnare abbastanza frequentemente, evitando di bagnare troppo, cioè con quantità troppo elevate di acqua. Tendo a identificarmi col banano, un po' africano e un poco americano, caraibico e sul suolo italiano. D'inverno si ritira stenta e quasi muore, d'estate si risveglia piano piano e fa sbocciare quel suo fiore strano. Grazie anche a Giulia Tamai, dottorum.it, per averci suggerito nuovi modi per portare piante in casa. C'è anche il terrarium illuminato, di cui non abbiamo parlato, ma è impossibile fare tutto in una sola puntata. Continuiamo a parlare di piante e fiori domenica prossima, qui al Giardino Segreto su Radio 24. Seguitemi in podcast se non riuscite a sintonizzarvi alle 15:30. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.